This victory alone is not the change we seek. Questa vittoria non è già il cambiamento che abbiamo cercato. È piuttosto la possibilità di creare il cambiamento. E non può avvenire senza di voi, senza un nuovo spirito di servizio per il paese, di sacrificio, di patriottismo. Un patriottismo è un senso di responsabilità che ci deve accompagnare. Ora dobbiamo affrontare i peggiori pericoli della nostra storia, la crisi economica, la lotta al terrorismo. Vi chiederò di aiutarmi a ricostruire questa nazione. Sarò sempre onesto con voi. Vi ascolterò, anche se la penseremo diversamente. Il cammino davanti a noi sarà duro e ci sarà bisogno di stare uniti. Ci solleveremo e cadremo come una persona sola.